ore 10 cambiò. Avanti il fischio, chi è? Tocca a te, perché la canzone è divisa in un modo, ma sta già cantando un'altra persona.